Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie a sfatola, sorriso di sole, Sanpei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amo una calamita, impossibile cambiare strada. Gira mondo con i marinai, quanti mari vedrai. Buongiorno, sono Margherita Acchi. Lo sapete che con la legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che possiamo sapere e quello che non possiamo sapere, quello che i giornalisti possono scrivere e quello che non possono scrivere. Ora lo sapete, pensateci e pensateci soprattutto quando... Un enorme mattone, è il 6 aprile 2009. Da poche ore il terremoto ha colpito L'Aquila. Ecco cosa si dicevano quello stesso mattino i due imprenditori Francesco Maria Piscicelli e suo cognato Pierfrancesco Gagliardi, legati ad Angelo Balducci e al sistema degli appalti della Protezione Civile. I due otterranno, nelle settimane successive, appalti per lavori in Abruzzo. Oh, ma la Ferratella occupa di sta roba del terremoto. Qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci, ma... No? Beh, certo, Io ridevo stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbò. Ciao. La stessa inchiesta vede indagato il capo della Protezione Civile, il sottosegretario Guido Bertolaso. Secondo i magistrati, i rapporti di Bertolaso con il costruttore Diego Anemone sono strettissimi. Anemone ottiene appalti in cambio di favori. Ecco una telefonata del 21 settembre 2009. Bertolaso chiama Anemone per fissare un appuntamento di lì a poco. Pronto? Sono Guido. Buongiorno. Ciao. Ecco. Hai ricevuto il mio messaggio? Sì, sì, io sono qui. Ok, allora arrivo. Sì, sì. Grazie, a fra poco, ciao. Sempre quel 21 settembre 2009, Anemone chiama Simone Rossetti, il gestore del Salaria Sport Village, il centro benessere di Roma di proprietà di Anemone. È il centro dove, secondo i giudici, Anemone, per compiacere Guido Bertolaso, si dava da fare per organizzargli festini e massaggi. Proprio Rossetti spiega ad Anemone che sta preparando una cosa mega galattica per la domenica successiva. Capo, eccomi. Allora, domenica prossima alle 8. Di quello che parlavamo prima? Sì, sì, cosa mega galattica. Chiudo. Ma lì da voi? Chiudo il circolo 2 ore prima, festa al centro benessere. Ah, benissimo, ok. 3 persone con lui. Eh? 3 persone con lui. Ciao, perfetto. Ciao. Grazie, ciao. Poi domani ci mettiamo. E quindi a... l'ora che ore? Io direi per le 8, no? Così organizziamo di sera? La frutta prima, champagne, okay. Frutta, un po' di colori, fiori, cose. Ok. Chiudo. Poi ti dico, vabbò? Ciao! Ciao. Ma dove custodiva Diego Anemone i soldi per pagare le mazzette ai vari funzionari pubblici? Sempre il 21 settembre 2009 i carabinieri del ROS lo scoprono. I soldi li custodiva un prete, Don Evaldo Biasini. E lo scoprono grazie all'ascolto di questa telefonata tra Anemone e Don Evaldo. Pronto? Ma dove va? Diego, ciao. Come stai? Bene, bene. Stamattina dovete una persona verso le 10:30, 11. Tu come stai messo? I soldi? Qui ad Albano ce ne ho 10 soltanto. Giù c'è niente. Giù a Roma potrei darteli, cioè tu puoi aspettare domani mattina. Domani mattina faccio un salto, casomai, allora. Va bene, ciao. Ci vediamo domani mattina, allora. Ciao, ciao. Grazie, Questa telefonata con la nuova legge non sarebbe mai stata intercettata. Ma c'è di più. Il comma 24, articolo 1 della legge, impone che se un magistrato indaga o intercetta un sacerdote, deve avvertire immediatamente i suoi superiori in Vaticano. La legge Bavaglio contiene un altro divieto. Nessuno potrà più registrare conversazioni senza che ci sia il consenso di tutte le parti interessate. Viene chiamato emendamento D'Addario, perché non potrà più ripetersi il caso di Patrizia D'Addario, l'escort, secondo l'accusa, assoldata dall'imprenditore barese Giampaolo Tarantini per offrire prestazioni sessuali a Silvio Berlusconi, in cambio di eventuali favori per gli appalti nella sanità pugliese. Patrizia D'Addario registra di nascosto le sue serate a Palazzo Grazioli, insieme al Presidente del Consiglio. È il 4 novembre 2008. Obama sta per essere eletto alla Casa Bianca. Berlusconi e Patrizia sono nel lettone di Putin. Io non ce la faccio anch'io. E poi qui mi hai preso nel lettone. Quale di Putin? Quello di Putin? È carino quello con le penne. 5 novembre, il mattino dopo. Berlusconi chiama Patrizia. Commentano la serata. Poi lui parte per Mosca. Pronto? Come stai? Bene. Tutto bene? Sì. Tu? Sì. Io sì. Ho lavorato tanto. Io sono andato a inaugurare questa mostra, ho fatto un bellissimo discorso. Lo faccio. E non sembrava tanto. Infatti come me, io non ho sonno, non ho dormito. È andata via solo la mia voce. Ormai non devo gridare. Eppure non ho urlato. Chissà perché è andata via la voce. Sai perché? Perché ho fatto la doccia 10 volte con l'acqua ghiacciata, perché avevo caldo. Va bene, senti, tutto bene? Sì, tutto bene. Vado però su mangio, io sto partendo adesso per Mosca. Va bene. Domani, tutto giorno, eh? Ok, un bacione forte anche a te. È cronaca di questi giorni, la sentenza di appello per l'irruzione della polizia nella scuola Diaz durante i giorni del G8 Genova 2001. La sentenza è di condanna per i vertici delle forze dell'ordine. Il processo sui fatti del G8 si basa anche sulle telefonate tra i poliziotti in strada e la centrale operativa. In questa telefonata due agenti parlano di zecche da abbattere e a proposito della morte di Carlo Giuliani dicono 1-0 per noi. La marescialla... Sì. Ho fatto fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste zecche del cazzo. Comunque. Speriamo che muoiano tutti, in questa malattia. Simpatica. Simpatica. Amica, no? Amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un attiro per noi, Anche Calciopoli viene fuori grazie alle intercettazioni. È l'inchiesta che ha scoperchiato il sistema di controllo degli arbitri e gli stretti rapporti tra i designatori arbitrali e dirigenti di alcuni club. Al centro del sistema c'è Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. È il 6 novembre 2004, è appena finita Regina Juventus, la Juve ha perso 2-1. Moggi è infuriato con l'arbitro Paparesta. Moggi telefona a una sua amica, Silvana Garufi, e le racconta come ha punito Paparesta. Questa cosa, due gol annullati, un rigore. L'ho visto, uno scandalo. Ho chiuso l'arbitro nel spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto. Mamma, signore. No, vero. Ho chiuso la chiave e portavo via le chiavi. Ora la apriranno e butteranno sulla porta. Ma che vergogna. Ma il cuore dello scandalo Calciopoli è in un'altra telefonata. È il 9 febbraio 2005. Moggi e Paolo Bergamo, designatore arbitrale, decidono insieme la griglia degli arbitri per il turno successivo di campionato. Allora, io ho fatto Inter Roma. Sì. Juventus Udinese. Sì. Regina Milan. Sì. Fiorentina Parma. Io ci ho messo Bertini. Mm. Paparesta che ritorna. No, Paparesta non ritorna. Ritorna venerdì. Ma sei sicuro? Sicuro, Bertini, Paparesta, Trefoloni, Ragalbuso e ci avevo messo Don Bolini. E questi qui erano gli arbitri che io ho messo in piedi. E Rodomonti a posto di Don Bolini, no? O Rodomonti a posto di Don Bolini, pure bene. E allora se l'ha fatta uguale lui. Tutte queste intercettazioni, tutte queste telefonate non le avreste mai potute ascoltare con la nuova legge Bavaglio. Un vecchio cervo un giorno sfasciò con due cornate le staccionate che ci aveva intorno. Già che me metti la rivoluzione, gli disse l'uomo appena se ne accorse, te taglierò le corna E allora forse cambierai d'opinione. No, disse il cervo, l'opinione resta, perché il pensiero mio rimane quello. Me leverai le corna che c'ho in testa, ma non le idee che tengo nel cervello. Buonasera padre Pizarro, siamo onorati della sua presenza, veramente avremo tante cose da chiederle perché siamo un po' confusi, diciamoci la verità. È oggi che la politica è così cinica, priva di regole, lei pensa che la Chiesa possa ridare un ordine, una moralità alla nostra politica? Ma amica mia, l'ordine già esiste ed è quello che abbiamo stabilito negli anni 50. Da una parte ci sono i comunisti e dall'altra ci sono gli anticomunisti. È così che si gioca. Tu scegli far comunista, tu scegli far anticomunista. È come una partita a scacchi. Io faccio il bianco, te fai il nero. È talmente semplice. Ma come un gioco? La gente, le masse hanno bisogno di un nemico. Tu devi scegliere. Se qua cominciamo a passare da una parte all'altra, la gente non ci capisce più niente. No, sì. I comunisti da una parte e gli anticomunisti dall'altra. È semplicissimo. Io però pensavo ci fossero dei valori dietro, no, dico, fatto prendere il colpo, dei valori dietro la destra e la sinistra, no, si parla di due schieramenti, la destra e la sinistra. Ma com'è la destra e la sinistra? La destra e la sinistra. Ma in che senso, scusa? Nel senso che ci... Ma tu credi veramente che esista la destra e la sinistra? Perché no? Ma non esiste la destra e la sinistra, sono cose che abbiamo inventato per la gente, per farla andare a votare. Come? Ma certo, perché se la gente sa che non esiste la destra, non esiste la sinistra, esiste soltanto della gente che cerca di spartirsi il potere, non ci va a votare, no? Ma che te frega, se gli diciamo questo, stanno a casa col televisore a guardarsi la partita, non ci vanno a votare. È come l'inferno e il paradiso, mica esistono, sono delle cose per far capire la gente. Non esistono. Ma che pensi, veramente che quando uno muore da una parte va quello col c'è il forchettone con le corna, dall'altra ci stanno questi con le armi, che sono piccioni, ma l'hai mai visti te? Io non l'ho mai visti. Non esistono. Ma meraviglioso te che sei giovane, dico, ma dove vieni, dalla montagna del sapone? Ma allora... Non esiste la destra e la sinistra. Prendiamo un esempio, Berlusconi, no? Ma che gli frega dalla destra e dalla sinistra, secondo te? Ma... C'ha i miliardi che gli escono dalle orecchie, c'ha la barca, c'ha la nave, c'ha l'aereo, c'ha l'elicottero, a casa c'ha un pezzo di... Cioè, no. Voglio dire, evidentemente non cerca soltanto di prendersi un po' di potere. No, vorrei capire. Allora, secondo lei Berlusconi poteva pure fare il leader della sinistra. Ma certo che poteva fare il leader della sinistra. E allora perché ha scelto la destra? Ma perché in quel momento si è liberato un buco sulla destra. Ma come? Ma scusa, perché dopo che è caduto Craxi, dopo che è caduta la Democrazia Cristiana, da quella parte c'era un buco. L'altra parte a sinistra era affollatissima, te devi mettere in fila, ci stanno i verdi, i comunisti, i posto comunisti, i prendissini, i postiessini, i maroni, gli arancioni, l'altra era vuota, si è piazzato là, no? Mi sembra anche giusto, sì. Mi sembra anche logico. No, è logico, però mi sta un po' confondendo, scusi, ma allora secondo lei Berlusconi non è l'unto del signore? Ma quello non è unto, è fard. Del signore? No, il suo. Parliamo del DDL sulle intercettazioni. Sì. Allora è passato questo DDL sulle intercettazioni, i giornali che pubblicheranno le intercettazioni verranno multati. Dobbiamo vedere come va a finire adesso. Però per ora è così, adesso c'è il dibattito, è così. Però quello che abbiamo capito è molto chiaro, che quello che interessa veramente, proprio quello a cui tengono tutti, è che queste intercettazioni non vengano pubblicate, perché così si evitano tante figure di merda. Sì. La cattura dei criminali è un problema secondario, questo è. Ministro Alfano? No, ma non puoi far così, ma non puoi. Ma che appello? Ma chi sei? Mi fa l'appello, non puoi. Angelino? Far... Ecco, lo fa. Angelo. Vabbè, su. Alf? Lo chiamo Alf? Ma no, è peggio. Alf d'Alfano, l'inizio. Non posso mica prendere la fine del nome. No, allora. Almeno Alfa, scusa, la prima lettera dell'alfabeto. Ma adesso come facciamo? Ma come accidenti le vengo? Perché questa gli è venuta qui ora, capito? E che lei è proprio è lì, che c'è niente da ma fare. Ma dai, ma fa ridere, non posso mica temarlo. Sì. E allora dicevo, adesso come facciamo noi a sapere? Cioè già non possiamo intervenire, non possiamo neanche più sapere così, capisci? Adesso poi ho letto che le intercettazioni le fanno per un massimo di 75 giorni. Dopodiché, stop. Se hanno catturato il criminale, a me non è un problema, chiudono la baracca. Non è vero, si può estendere, ma insomma come... No, però sì, allora però, succederà... La sostanza è allora, io penso che succederà questo, che i delinquenti si organizzeranno, cioè fino al 75esimo giorno parleranno solo di cazzate, come va tua moglie, hai cambiato la macchina, sei andato in andropausa, quelle robe lì. Poi dal 76esimo giorno, ale, cominciano le trattative. Cioè, se mi porti due trans, allora ti do il cantiere a Varese, già che ci sei uccidimi un prete antimafia, ti do 10 milioni, parte in euro, parte in mignotte, perché poi la verità è quella. Anzi, tra l'altro, non so se hai notato, no, ma l'unico cambio, mignotta euro, euro mignotta, è l'unico che regge in questi sbagli di mercato. È l'unico stabile. È incredibile. È l'unico stabile. Anzi. È un investimento sicuro. Altro che i bot. Anzi, dobbiamo dirlo, Tremonti, Tremi. No, a tutti, no. Tremolino. Dai, su. Julie, senti, visto che l'euro è in crisi, introduciamo una nuova moneta, la Escort. Scusami, A Roma non ci sono le piotte. E introduciamo una nuova moneta, le mignotte. Guarda, poi tra l'altro viene anche bene. Quanto fa? 2,5 escort. Oppure, hai da cambiarmi una mignotta? No, guardi, sono uscito senza portamignotte. Buongiorno, sono Paolo Rossi. Lo sapete che con la legge Bavaglio... Pensateci! Qui non c'è di altre cose. Dove? Rendere fragile, compromettere la privacy significa in qualche modo compromettere tutto il resto, tutta la struttura che ha una democrazia. Ma questa legge non difende affatto la privacy, su questo bisogna essere chiari, semplici, diretti nel raccontare, nel far capire questo. Non è vero che questa legge difende, come è stato detto, le telefonate tra fidanzati. Non è vero che questa legge, come dire, permetterà che di tutte queste cose si possa non parlare. Questa legge ha un unico scopo, impedire che i giornalisti, e non soltanto loro, impedire di conoscere quello che sta accadendo, impedire che il potere possa essere raccontato. Quindi la privacy che loro vogliono difendere è la privacy degli affari, anzi, dei malaffari. Questo è fondamentale capirlo, è fondamentale capire anche un'altra cosa che forse è nel profondo di tutti i visi che sto vedendo e di tutte le persone che sono qui in questo pomeriggio, in questa serata, infrasettimanale, nonostante il lavoro, nonostante il caldo, cioè quello che stiamo facendo, quello che state facendo, supera i confini italiani, perché compromettere la libertà di stampa, il racconto, compromettere anche la possibilità di indagare in Europa, in Italia, in uno dei paesi fondatori del sogno europeo, ecco, difendere la democrazia qui significa non permettere che possa essere compromessa in Europa. Non permettere che giornalisti che vengono per esempio perseguitati in molte altre parti del mondo non possono più vedere nella nostra democrazia, nel nostro modo di comunicare, di raccontare un riferimento. Quindi quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo anche e soprattutto in nome di regole che sono universali, che permettono altrove anche di raccontare e di essere liberi, tutt'altro che diffamare il paese. Tutt'altro che compromettere l'immagine dell'Italia nel mondo. E, insomma, io sono anche convinto che questa battaglia sia trasversale, che non riguarda neanche più le parti politiche, che in qualche modo in Italia stia accadendo qualcosa di molto pericoloso e complicato. Cioè che si stia iniziando a dividere il paese tra persone per bene, indipendentemente dalle idee, e banditi, indipendentemente dalle idee. Senza arrivare a toni, diciamo, troppo così, di cui non sono neanche capace di sostenere. E mi hanno ferito ieri le parole di Marcello Dell'Utri, che per l'ennesima volta definivano Mangano un eroe. E chiudo, perché ho già parlato troppo, semplicemente su questo, cioè non permettiamo di far passare queste cose come naturali, come una boutade politica, come una semplice provocazione. È gravissimo, non è pensabile. Questa legge, per esempio, non avrebbe permesso a molti di raccontare gli affari che riguardano per esempio l'imprenditoria criminale che aveva coinvolto Nicola Cosentino, il sottosegretario allo sviluppo. Se ci fosse stata questa legge non avremmo mai potuto raccontare. Ecco, quello che voglio dire è in qualche modo ci stanno spingendo, e non parlo neanche davvero identificandomi con una parte politica specifica, ma ci stanno spingendo a dire: tanto è tutto uno schifo, è tutta una chiavica, si dice nel mio paese, no? È tutto. Questo non bisogna pensarlo, nella misura in cui è esattamente quello che vogliono. Resistere è una parola complicata. Resistere è una parola complicata, forse spesso un po' abusata, quasi come la parola amore, no? Che se la ripeti troppo spesso, noi ci ripetiamo troppo spesso la parola resistere, è come la parola amore, che se la spendi troppo, insomma, si lercia. In qualche modo io penso che resistere oggi significa permettere di raccontare. Voi lo racconterete a qualcun altro ancora qualcun altro, e soprattutto senza avere paura di confrontarsi con gli altri, senza pensare o criminalizzare chi ha votato in maniera diversa o chi la pensa in maniera diversa. Credo che ci sia uno spazio in questo momento per parlare al cuore delle persone. Ieri ero a Viterbo, una città, insomma, feudo per esempio del PDL, eppure c'erano migliaia di persone ad ascoltare delle storie, qualcuno non ha condiviso, qualcun altro sì. Secondo me questo è il momento per poter parlare al cuore di molte persone e resistere forse a una grande immagine, cioè quella di sognare un paese diverso. Danilo Dolci, che era un grande filosofo che visse in Sicilia, nonostante fosse settentrionale, diceva che ciascuno cresce solo se sognato. Allora io credo che l'Italia potrebbe crescere solo se iniziamo a sognarla. Ho parlato troppo, grazie. Ciao. Il 9 e il 10. Il 2 e 69. Buongiorno, sono Tony Servillo. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Bene, adesso lo sapete. Pensateci. Il problema è l'oggetto, non il soggetto. Allora, che il giornalista faccia il suo mestiere. Io ricordo, per esempio, che nel settembre del 2003 andai a intervistare Licio Gelli fingendo di essere una persona che voleva proporlo al premio Nobel per la letteratura, perché questo era l'unico modo per essere ricevuti. E poi, naturalmente, nel corso della conversazione, alla fine della conversazione, gli rivelai la mia identità di giornalista, però fui ricevuta fingendo di essere qualcun altro, e fu la famosa intervista in cui Licio Gelli disse dovrei avere il copyright per il piano di rinascita che si sta attuando, il piano di rinascita della P2, lo dico perché chi ha meno di 30 anni forse queste cose non se le ricorda, nel quale piano di rinascita c'era anche un punto che prevedeva una legge che regolasse il diritto alla dignità del cittadino secondo il modello inglese, quindi vedete che ci siamo. Io però su questa legge, che chiamiamo legge contro le intercettazioni, vorrei dire un'altra cosa, che è quella che ho detto l'altro giorno all'FNSI quando tutti i direttori di giornali hanno protestato, e per aver detto questo sono stata attaccata come al solito dai giornali del centrodestra. Cioè, io non credo che questa sia una legge contro i giornalisti, e sarei molto attenta a farne una rivendicazione di categoria dei giornalisti che vogliono informare. Questa è una legge fatta per impedire le indagini, non per impedire che se ne parli delle indagini. La prima parte di questa legge riguarda le limitazioni alla libertà di stampa che di fatti, non appena tutti i direttori di giornali hanno protestato, così come si lancia un osso al cane, sono state subito, come dire, riassorbite, le multe sono diminuite, alcune cose sono state riaggiustate. Tutta la seconda parte della legge, che è quella che riguarda la limitazione alle indagini, è là ed è intatta ed è il vero oggetto, è la vera questione di questa, soprattutto per le indagini di mafia. E qui vengo al punto, la limitazione dei 75 giorni è assolutamente ridicola, perché in 75 giorni di tempo, per il tipo di indagini che si fanno, insomma, voglio dire, prima Sandro parlava di, Sandro lo sa meglio di tutti, 75 giorni sono un tempo inaccettabile. La distinzione ma fra non reati vale per la mafia, però, eh? No, la distinzione fra reati ordinari e reati di mafia, stavo dicendo, è del tutto risibile, perché moltissimi reati sono ordinari inizialmente. Io mi sono appuntata mentre parlavate, quello della Arner Bank, per esempio, la procura di Como indagava, vi ricordate, sul banchiere della Arner, era un reato ordinario e durante le intercettazioni si scoprì che parlava con un mafioso e diventò reato di mafia. Questo capita normalmente. Se tu trovi una persona che va a fare un versamento a un internet point, sta facendo un traffico internazionale, che cosa fai? Un pedinamento? Cioè, ci sono, e sono cambiati anche i tempi rispetto ad allora. Quindi vorrei che fosse chiaro che il problema a difesa della democrazia, diciamo, non è un problema a difesa corporativo dei giornalisti o dei giornali, ma è a difesa delle indagini. Bisognerebbe chiedere a chi indaga quali sono gli strumenti di cui ha bisogno e non limitarli. Questo è il secondo punto e la legge su questo, e la legge su questo è rimasta. Io voglio dire che con le norme attuali, per esempio, certo, sulle norme attuali, le telecamere che non si possono usare, non sarebbero stati arrestati né Provenzano né Riina in queste condizioni con questa legge, perché se tu puoi fare soltanto, puoi attivare soltanto le telecamere laddove già sai che c'è una persona, non la troverai mai. Su questo però voglio dire, siccome prima questo di chiedere, questo è lo strascico, io per trovare Provenzano metto sotto osservazione una serie di persone che senza limite per 50 le indagini anni. Chiediamo l'Italia piena di telecamere, chiediamo che indaga di però scusa Michele, vorrei non lo faccio per sapere quali sono sempre dappertutto e secondo c'è me qualche volta si arriva. Oh, scusate fatemi aprire, fammi finire una cosa, perché tu dicevi prima rapidissima, io ho qui l'ordine di custodia cautelare per Favata, siccome voi prima dicevate sarebbe, non sarebbe, il magistrato dice in base agli elementi esposti si è accertato che, e al punto 10 c'è scritto si è accertato che Paolo e Silvio Berlusconi hanno ascoltato il contenuto del file consegnato nella pennetta da Favata e da uno di questi signori che lavorano per le procure facendo intercettazioni, cioè il signor Raffaelli che lavorava per la RCS, una vicenda su cui io vorrei tornare perché è uno scandalo incredibile. La mia redazione è stata sequestrata, è tenuta sotto sequestro e perquisita per due volte, io sono stata interrogata per un numero infinito di ore su questa vicenda e la conosco nel dettaglio. È il Watergate italiano. Vabbè, sentiamo dopo sto Watergate italiano. Nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare. Com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani. Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò quello.